giorno mi sforzavo di assistere, ma arrivavi sempre prima tu. Ed allora ho provato a resistere, ma per te non ti pensavo più. Non è per me la strada questa, non ti riesco più a trovare. Vorrei provare a dire basta, essere me stesso e non cambiare. E vivere con te è stata un'emozione. Per quanto io vivrò, io la farò valere. E nei momenti che sei triste, tu lo sai, inventati una favola e mi raggiungerai. E non essere sicura di credere che i miei sogni non esistono più. Io non ho pensato mai di ferirti e non mi sono preso gioco di te. E non è la strada giusta questa, ci riprovo ma non ci credo più. Sono stanco ed ora dico basta, io non voglio andare ancora giù. E vivere con te è stata un'emozione. Per quanto io vivrò, io la farò valere. E nei momenti che se tu lo sai, inventati una favola e mi raggiungi.